Marco Feto, Hitler hologram, il mio nome è Jam, sono mai cantante, bella ed esuberante, io ballo il rock and roll, io ballo il rock and roll, io ballo il rock and roll, o ci vediamo nello spazio, o ci vediamo nello spazio, conscio, conosce l'ansia dell'angoscia che generò, ci vediamo nello spazio, sure is death, neura, assolutamente convinto della mia responsabilità, audiofila, aspetto che si arrabbi e si riveli in me, femminologia, lirica, vita, Einstein, schiavo del mio linguaggio, io mezzo, scelto da lui in quanto personaggio, new speak and spike, spavento smette, cimitero per voi, per wolf, ulula, abrasiva, lugo, la proto, parara, proto, parara, o ci vediamo nello spazio, o ci vediamo nello spazio, figli di una generazione di un vocabolario, un bambino, un distinguo, un no, mi sa che ho un problema mnemonico, carbocation istronico, avveleno un MC, scattofono tags, affetti da rapping gags, mentre io intrarizzo tip zap, assolutamente abstract, am salito d'acqua e mancia carta, dai fuoco al mio braccio, dimmi cosa è peggio, benvenuti dentro al grigio, è un alloggio, essere nato sotto il 4 maggio è noia, paranoia, convulse gioia sulle note del noise, noia noise, noia noise, noia noise, noia noise, ciò che permane invariabilmente costante, no, no, o ci vediamo nello spazio, no, no, o ci vediamo nello spazio, ma Veto e le nello spazio terreoli, sconto dentro il same vocabulary, con il mio same vocabulary, affetto dal mio same vocabulary, noia, paranoia, convulsa gioia sul noias, noia, noias, noia, noias, a tratto esprimo delirante, un fetto deprimo asfissiante, giudizi che rimangano tali che motturano la mente, mi masturbano le tempie, mi masturbano le tempie, mi masturbano le tempie, deludentemente facile, ma quanto esterne di te, quantitativamente, ma quanto esterne di te, quantitativamente, ma quanto esterne di te, quantitativamente, trascurabile o significante, mentre in teorizzo tip tap tap, mentre in teorizzo tip tap tap, mentre in teorizzo il tip tap tap.